bella questa città, fatta di marmo e mirabilia, così diversa dal mio villaggio, fatto di fango e di paglia. E com'è grande questa Olimpiade, di colori e di bandiere, in questa città che quando ero bambino dominava il mio paese. Anche se oggi non si corre tra Atene e Maratona, io mi sento come Annibale alla conquista di Roma. E oggi corre insieme a me, a piedi nudi, un popolo intero, per il riscatto e la dignità del continente nero. E corro, corro, corro, e corro e non mi stanco, mentre passo davanti alla cupola del grande sciamano bianco. E se vinco poi chissà cosa dirà l'imperatore, magari mi darà una medaglia e una settimana di ferie. Com'è duro quest'asfalto che mi punge sotto i piedi, così diverso dalla terra dove correvano i miei antenati. E mentre vado tra i campanili, tra le colonne e le chiese di pietra, ogni tanto un obelisco come quelli di Addis Abeba. E lento il sole scende dietro i colli della città, e s'accendono le luci della nuova modernità. Automobili e fanali scintillanti nella sera, mentre l'uomo entra correndo nella storia di un'altra era. È giunta ormai la notte e non ho più rivali, mentre scorrono intorno a me le rovine dei fori imperiali. E ripenso alla mia famiglia e alle corse da bambino, quando dietro l'ultima curva ecco l'arco di Costantino. Credo ancora, sono il re di Roma, non si vede ma la sento, in testa la corona. E anche se sono un uomo come un altro, stasera sono il fiore più alto, il fiore più alto.